Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi ci occupiamo di mezzi pesanti a guida autonoma che si prevede tra i 3 e i 5 anni potrebbero essere già in circolazione in siti particolari come porti e miniere. Sul fronte della sicurezza stradale ci faremo spiegare come la Svizzera è riuscita a diminuire significativamente il numero delle vittime della strada e quindi spazio ad un'iniziativa avviata dal Comune di Milano sul fronte della sostenibilità. Lo sviluppo tecnologico è una sfida continua e nell'automotive quello che solo fino a qualche tempo fa poteva sembrare fantascienza è ormai realtà. Il veicolo a guida autonoma rappresenta la svolta epocale destinata a cambiare completamente il mondo delle quattro ruote e il concetto stesso di mobilità. La prospettiva riguarda le auto e riguarda chiaramente anche i mezzi pesanti. Da un anno e mezzo nel Nevada è scattata la sperimentazione dei tir a guida autonoma. La scorsa primavera per le strade europee è andato in scena il primo viaggio del platooning. Cos'è? È un convoglio di tir guidati dall'autista del primo mezzo attraverso la tecnologia vehicle to vehicle. La notizia è che in termini di utilizzo operativo e di tempi, il camion a guida autonoma potrebbe superare addirittura le auto. Su queste prospettive imminenti e più in generale sull'andamento estremamente positivo del mercato dei mezzi pesanti, segnato da un'impennata delle immatricolazioni, abbiamo intervistato Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae. Già noi tutti abbiamo le tecnologie che possono da domani mattina partire, il problema sono le normative e le infrastrutture. Oltretutto si parla anche di auto, ma il camion è più agevolato in quanto io sono convinto che a brevissimo tempo assisteremo a cominciare dei siti come possono essere i porti, possono essere le posti pericolosi, possono essere le miniere, dove il veicolo industriale già fin da subito potrà cominciare ad avere delle belle soddisfazioni, quindi cominceremo già molto a breve termine. 3-5 anni vedremo di queste soluzioni già in molte parti del mondo. Uno sguardo al mercato, dopo gli anni terribili i segnali sono incoraggianti. Sì, grande soddisfazione per quanto riguarda il 2016, quindi uno potrebbe dire lamentandosi non siete mai contenti, ma cosa chiede un costruttore, cosa chiede un'azienda? L'azienda vuol crescere nel tempo, quest'anno stiamo crescendo intorno al 40-50% dopo 7-8 anni dove il mercato era sceso al ben del 70%, quindi questi shock così non comportano per noi la possibilità di poter garantire delle efficienze alle nostre aziende e quindi anche avere il coraggio di investire a lungo termine. Credo che la cosa bella sarebbe quello di crescere ogni anno in modo diciamo 5-10%, quindi speriamo adesso che certi provvedimenti del governo tipo superammortamento possa essere portato avanti, in quanto ci aiuterebbe negli anni a poter attenuare o ottenere questo livello che è pur sempre un 50% rispetto al 2008, non dimentichiamolo, è un più 40-50 verso il meno 70%, no? Quindi molto importante, ma è pur sempre un 50% rispetto ai numeri che noi avevamo nel 2008. Nel 2008, a partire dal 2008, le ricadute occupazionali sono state tremende. Sì, sono state incredibili, in quanto il settore nostro, ne hanno parlato poco, ha perso esattamente 200.000 occupati e chiaramente questo ha comportato per noi dei grandissimi sacrifici. Se ne è parlato poco, in quanto il camion, di solito il veicolo pesante, è visto come inquinante, è visto come brutto e cattivo. Se ne parla magari quando purtroppo capitano degli incidenti ed è giusto parlarne, per carità, perché è giusto che la gente migliori, però non abbiamo mai avuto nessuna soddisfazione nel far presente anche che è un settore vivo, è un settore che potrà fare il futuro, che oggi rappresenta ancora l'85-90% del trasporto stradale. Noi crediamo nell'intermodalità, ma il camion ha ancora una grandissima parte. Comunque l'intermodalità non è stop ai camion. Assolutamente no, è gestire meglio il trasporto e di questo noi siamo consapevoli che un'altra parte per essere presenti nel futuro vada portata avanti. In questo, essendo questo un problema abbastanza complesso, è chiaro che ci vuole un coordinamento, in quanto non si può solo i camion o le navi o la ferrovia fare dei provvedimenti spot, ma bisogna che ci sia una cabina di regia affinché si possa veramente coordinare il tutto e tutti possano fare il loro meglio. Dal mercato quindi arrivano segnali confortanti nella direzione della ripresa di un settore che, come ripetiamo spesso in questa trasmissione, è stato particolarmente segnato dagli effetti della grande crisi e ha ancora tanta strada da percorrere. Secondo le associazioni di categoria, sul tavolo restano questioni importanti sulle quali si gioca il futuro del comparto e quindi la possibilità di innestare una marcia più veloce veloce con la quale recuperare le posizioni perdute. Tra i nodi irrisolti, la questione della decontribuzione per gli autisti impegnati nei servizi all'estero, il provvedimento previsto dalla legge di stabilità è stato stoppato da Bruxelles, e poi norme per la regolazione dei tempi di pagamento e il caso dei disservizi da parte degli uffici territoriali delle motorizzazioni per quanto riguarda in particolare le revisioni obbligatorie. Su questi e altri temi, Unatras, Fedite e Anita hanno chiesto un incontro urgente con il sottosegretario ai trasporti Simona Vicari, titolare della delega sull'autotrasporto. Voltiamo pagina, parliamo ancora di sicurezza stradale. Dopo 13 anni contrassegnati da una diminuzione costante, in Italia nel 2015 il numero dei morti sulle strade è tornato a salire. Sono stati 3.419, cioè l'1,1% in più rispetto al 2014. Come abbiamo appreso nelle ultime settimane, anche provvedimenti legislativi come la cosiddetta legge sull'omicidio stradale non hanno sortito un particolare effetto deterrente, quantomeno stando alle statistiche ancora provvisorie relative al secondo trimestre del 2016, cioè da quando è entrata in vigore la norma. Nel frattempo si infittiscono iniziative e campagne per sensibilizzare sul fenomeno sociale degli incidenti stradali e incentivare condotte di guida e comportamenti al volante più virtuosi. In questa direzione si è mossa anche la Svizzera, con risultati che si stanno rivelando particolarmente significativi. Nei primi 6 mesi del 2016, infatti, sulle strade della Confederazione hanno perso la vita 85 persone, cioè il 27% in meno rispetto allo stesso periodo del 2015. Esiste quindi una ricetta svizzera? Lo abbiamo chiesto a Gabriele Crivelli di Ustra, l'ufficio federale delle strade. Ci sono molti fattori che possono influire sul numero di morti, sulle vittime degli incidenti sulle strade: i volumi di traffico, ovviamente, l'evoluzione tecnica dei veicoli, le condizioni meteorologiche, soprattutto per quello che riguarda i veicoli a due ruote. In caso di cattivo tempo, ad esempio, gli utenti delle due ruote tendono a spostarsi meno, a ripiegare su altri mezzi di trasporto. Le politiche di prevenzione, in Svizzera è stato anche attuato un pacchetto di misure che si chiama Via Sicura, che ha come obiettivo appunto la diminuzione del numero di morti sulle strade. Sentiamo più nel dettaglio quali misure si sono dimostrate efficaci per ridurre il numero delle vittime sulle strade svizzere. Ve ne sono diverse. Diciamo che le più importanti che sono già entrate in vigore sono le misure contro i cosiddetti pirati della strada, che è una definizione un po' diversa rispetto a quella italiana. In Italia un pirata della strada è una persona che investe una persona, che prova comunque un incidente sulle strade e poi scappa. Da noi si utilizza questa definizione per definire quei comportamenti di automobilisti che effettuano delle violazioni in materia di velocità particolarmente gravi, ad esempio circolare a 100 km all'ora in un villaggio dove il limite è 50. Ecco, si sono inasprite le pene contro questi tipi di comportamenti. Vi sono altre misure, sono state attualizzate le prescrizioni minime per gli automobilisti che hanno superato una certa età. Tutti gli automobilisti al di sopra dei 70 anni devono effettuare ogni 2 anni un esame di controllo, in cui vengono poi verificate tutti gli aspetti che possono influenzare la guida, la reazione, la vista e quant'altro. E vi sono tutta un'altra serie di misure che sono entrate in vigore a partire dal 2013, tuttora entrano in vigore. Sarà migliorata l'efficienza dei controlli per quello che riguarda l'alcol al volante. Un altro tema caldo è quello della sostenibilità, ne parliamo spesso in questo programma. Un discorso particolare riguarda i centri urbani, dove le concentrazioni di sostanze inquinanti sono più alte, e per questo oggi andiamo a Milano, dove il comune ha avviato un'iniziativa finalizzata alla riduzione dei gas di scarico da parte dei mezzi che trasportano merci. Ci spiega meglio Marco Granelli, assessore alla mobilità e all'ambiente. Il comune di Milano ha deciso di investire quasi 1 milione di euro per contributi agli utenti, diciamo, che hanno macchine o camion per il trasporto merci, Euro 3 ed Euro 4 diesel, per mettere il filtro antiparticolato e in questo modo diminuire le emissioni in atmosfera. Questo è fondamentale per aiutare tutti a diminuire un inquinamento che nelle aree urbane è molto pesante. Il diesel è una delle quote più significative di inquinamento atmosferico, di emissioni, perché cuba circa il 30% delle emissioni, e quindi per noi sono molto importanti quelle politiche che sia riducono e promuovono un cambiamento dei mezzi e aiutino questi operatori a mettere il filtro in modo da abbattere le loro emissioni. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo lunedì. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.